Proprie parole. Okay, sono stato grato ai padri rosminiani che hanno voluto che io rileggessi qui tu cur la mia relazione di Stresa, e cosa che faccio molto volentieri. E la situazione sarà giuridica, però non solo giuridica, come spero che risulti chiaramente da tutta la mia impostazione. Questa relazione ha un compito assai difficile, e cioè dimostrare la presenza effettiva e addirittura interna di un sistema giuridico del matrimonio e della famiglia nella filosofia di Rosmini. Presenza non occasionale, ma deliberata e costruita. È per questo che il mio dire inizia quasi disponendo alcuni fondamentali motivi della filosofia rosminiana, in un quadro che rimane come aperto, e poi fa seguire, evidentemente è doveroso questo, tutta la teoria giuridica, e da ultimo cerca di riportare al quadro della filosofia rosminiana questo sviluppo, tentando di coglierne il senso e il valore del matrimonio e della famiglia. Sono consapevole di una certa, come si potrebbe dire, Zwiespältigkeit, cioè di un certo scarto che ha la relazione, ma accetto il rischio che un'esposizione della teoria giuridica insieme al riferimento alla linea generale della filosofia rosminiana comportano. Devo anche dire che per quanto riguarda i temi del matrimonio e della famiglia in Rosmini, ho voluto conservare le dimensioni e quasi le caratteristiche di costruzione di procedimento che si hanno ricevuto dallo stesso Rosmini, che ha fatto oggetto di particolare attenzione il matrimonio ed è quindi passato alla costruzione della famiglia. Cercherò dunque di adempiere al compito immediato di riesporre, non senza un criterio interpretativo, la dottrina di Rosmini, al tempo stesso cercando di cogliere il significato di matrimonio e di famiglia in tutta la filosofia di Rosmini, sia pure in breve scopo. La ricostruzione interna che mi propongo di fare apre la via a un più ampio confronto con gli autori, meno recenti e perfino recentissimi, che hanno trattato questo tema in Rosmini. Diciamo Villino, Besserovetti, Riva, Muratore, Bergamaschi, Prenna, Autiero. Chiediamoci, quali erano le direzioni culturali che nel campo della filosofia sociale e giuridica Rosmini aveva dinanzi e nei confronti delle quali fu condotto a prendere posizione? Ciò è indispensabile anche al fine di cogliere il suo innesto speculativo. Non si sarebbe forse lontani dal vero se si vedesse Rosmini tra le due grandi correnti, tra illuminismo e romanticismo, partecipare come uomo del suo tempo ad entrambe, recando talvolta segni dell'una e dell'altra, ma anche discostandosene nettamente per superarle, fin dall'inizio del suo pensiero, in una nuova sintesi. Indubbiamente le sue opere di filosofia giuridica e politica recano i tratti dell'epoca illuministica e riflettono, si potrebbe dire, l'ispirazione di Christiano Wolff, tanto estesa in quel tempo, e di cui anche Taparelli d'Azeglio risente, di quel Wolff che, come ha dimostrato Sauter già dal 1932, torna alla metafisica classica. Ma Rosmini è lontano dall'individualismo e dal razionalismo illuministico e senza esitazioni va verso una concezione rinnovata dell'uomo. D'altra parte Rosmini si apre appassionatamente alla realtà sociale e politica, ne fa sin da giovane l'oggetto del proprio pensiero, ne sente profondamente la suggestione, ma è lontano dalla sostanzialità romantica ed va deciso verso una nuova razionalità del sociale e del politico. Si direbbe che Rosmini quasi si trovi al punto d'incontro delle due grandi direzioni di pensiero, appunto l'illuminismo e il romanticismo, e ne opera una mediazione, riconsacrando in termini classici i motivi autentici dell'una e dell'altra. Per quanto riguarda l'illuminismo, una reinterpretazione del motivo fondamentale di questo gli era già offerta dal clima culturale del suo Rovereto e della terra in cui era vivo ed operante quell'illuminismo cattolico eretto contro l'altro, proprio degli stati austriaci della Restaurazione, e di cui ci ha parlato così efficacemente Arturo Carlo Jemolo. Ma Rosmini esce da Rovereto e a Padova si misura con altre concezioni filosofiche, prima quella del sensismo italiano, al cui confronto si approfondisce la sua esigenza di una concezione speculativa del soggetto senziente, con il recupero della sensibilità a favore di un sentimento fondamentale da iscrivere nell'essere. Ed è a Padova che avviene il contatto con le correnti romantiche, specie francesi. Si può dire che dal punto di vista delle dottrine giuridiche e politiche, le direzioni di pensiero che abbiamo esaminato confermino e spingano oltre i Rosmini in quello che era un intrapreso itinerario. Il punto di partenza era stato quello indicato e anche suscitato dal suo stesso ambiente originario, la dottrina classica e cattolica. E questa è la più larga direzione in cui Rosmini dispone e dà vita a tutta la sua esperienza culturale. Il giovane Rosmini concepisce una grande rinascita attraverso una riconquista di ciò che era di autenticamente vero, di ciò che è autenticamente vero alla tradizione, ed ecco il suo programma di ritorno a San Tommaso, con l'opera iniziata, famosa, De Divi Tome Aquinatici Studio Apud Recensioris Theologos Instaurando. E a questo proposito è da ricordare che proprio recentemente è uscita in Austria l'opera di Karl-Heinz Mencke, Vernunftum Offenbarung nach Antonio Rosmini, la quale porta il significativo sottotitolo Der apologetische Plan einer christlichen Enzyklopädie. Ed ecco la reinterpretazione che Rosmini fa anche del motivo romantico. Egli avverte potente l'esigenza di un ritorno alla tradizione e alla storia, nella forma di uno storicismo cristiano. Egli, sono parole di Gioele Solari, non condivide la fiducia illimitata del secolo XVIII nelle forze della ragione umana e riabilita contro di essa il valore del sentimento, della tradizione e della rivelazione. Questo storicismo cristiano, come ha dimostrato Luigi Bulferetti, riprende e riannoda la tradizione più profonda della filosofia italiana, da San Tommaso a Dante e a Vico, autori che Rosmini ha ben presenti, e sorprenderà forse che nella filosofia del diritto di Rosmini le citazioni di San Tommaso formino un compiuto sistema, mentre assai modeste sono le menzioni che di San Tommaso fa il contemporaneo Tapparelli. Lo storicismo cristiano, sia pure contrassegnato qua e là da elementi illuministici nel senso che si disse, appare una formula felice per denotare la posizione di Rosmini di fronte al tema giuridico e delle società in specie. Tutta la sua attenzione al tema sociale non si spiega se non in una visione tradizionale, ma come avvivata e mossa da un motivo romantico, appunto di romanticismo cristiano, che reagiva alla strattezza illuministica e alla sua insensibilità e avversione alle formazioni storiche. Come si diceva, Rosmini fin dall'inizio è attratto dalla meditazione di temi giuridici e politici, meditazione che doveva poi continuare in una ai termini teoretici, giacché, come richiama Santino Caramella in quelle brevi e dense pagine del 1955, il pensiero giuridico rosminiano non fu mai preoccupato di cercare se stesso più innanzi o più indietro, né rinunziò temporaneamente o fatalmente alla scienza filosofica per altri lumi, ma procedette in tutta la sua storia come uno e coerente. Rosmini, come noto, viene via via depositando il suo pensiero in una trilogia giuridico, Filosofia della politica, 1837, Filosofia del diritto, 1841, e della naturale costituzione della società civile, uscita postuma nel 1887, che reca le linee della sua enciclopedia filosofico-giuridica, compenetrate appunto con le tesi generali del suo pensiero. Ecco punti fondamentali. L'ordine dell'essere è riconosciuto praticamente come legge morale, che dà un aspetto di concretezza a tutta l'etica. Il soggetto non individuo astratto e fuori della storia, né soggetto fenomenico, ma persona, il cui sentimento fondamentale trova integrazione nell'essere. Di fronte alla legge morale, la persona che è diritto sussistente, che integra in sé ed eleva l'elemento sensibile eudemonologico. Non già la totalità sostanziale romantica, ma le società aperte sull'essere, alle quali veniva restituito il valore ontologico e soprattutto il principio primo, negato, reso diafano dall'illuminismo, cioè Dio, termine supremo dell'essere. Così le società si fanno concrezioni dell'umanità, realtà umanitarie e se stesse. E veniamo al nostro specifico tema. Il matrimonio e la famiglia, che nelle denominazioni rosminiane prendono il nome di società domestica, la quale si articola nella società coniugale, nella società parentale e nella società erile, hanno una collocazione precisa e un vasto sviluppo nel volume secondo della filosofia del diritto, del diritto sociale. Seguendo via via in quegli anni, vi è un'importante serie di scritti che suppone tutte le spiegazioni sistematiche, le rende operanti in particolari circostanze storiche e offrono testimonianza della presenza di Rosmini alla vita ateneana del tempo, quale fu il progetto di introduzione del matrimonio civile in Piemonte. Giustamente è stata posta anche di recente in rilievo da Remo Besserobelti, nella nuova edizione nazionale delle opere di Rosmini, l'importanza di questi scritti. Ma è indubbio che la costruzione di Rosmini attinente al matrimonio e alla famiglia, tutta la parte impostativa di valore speculativo, sta nella filosofia del diritto. A quest'opera, a questo libro definito stupendo da Francesco Filomusi Guelfi, dovremmo dunque innanzitutto rivolgerci. Era necessario indicare la collocazione e l'estensione, per così dire, testuali delle trattazioni del matrimonio e della famiglia. Occorre dire che questa stessa collocazione ha un significato speculativo, perché è inserita profondamente in quella che io vorrei chiamare la metafisica sociale di Rosmini. Ogni volta che apriamo le pagine del diritto sociale, siamo indotti a meditare sul mutamento di orizzonte che esse segnano. Rosmini reintroduce, con ardire sicurezza, gli elementi classici che le concezioni razionalistiche avevano trascurato e anche combattuto. Cioè la natura umana nella sua compiutezza, nella sua concretezza e nel suo sentimento, che sia appunto a Dio, che è concepito come termine ultimo, normativo, delle società. Così le trattazioni del diritto sociale ci rivelano appunto una metafisica sociale, costruita sugli elementi speculativi che Rosmini aveva conquistato e che qui si scorgono in atto. L'essere e il suo ordine è riconosciuto praticamente. Il sentimento che si integra nell'essere umano, la volontà che è alla radice del soggetto persona. Inoltriamoci nella trattazione del matrimonio e della famiglia, in quelle pagine così difficili e così alte, come diceva Capograssi. Come ho cercato di porre in rilievo in altro studio, fondamentale è il passaggio dal diritto individuale al diritto sociale, per abbracciare in tutta la sua prospettiva le società, e in particolare il matrimonio e la famiglia. Già nel diritto individuale, Rosmini aveva richiamato l'attenzione sull'umanità come generatrice di diritti e di doveri. Nel diritto sociale non solo riafferma l'importanza di questa società del genere umano, ma traccia tutta una storia di essa, rivendicando la sua intima natura di società naturale con Dio. Tutti gli individui posseggono in comune la verità, il lume della ragione, discendendo da questo un uguale diritto, un'uguale obbligazione, identica virtù, identico fine, compimento della stessa virtù, bene eudemonologico, non può non negarsi la esistenza di una società del genere umano, di una società naturale. Se gli uomini intendono che il lume della ragione che hanno in comune deve avere un autore, allora essi sentono che un vincolo li assoggetta al primo degli esseri. Poiché l'essere che risplende le menti è quello stesso che è in Dio, l'uomo e Dio hanno un bene in comune e quindi una comune società. Sui presupposti della società dell'uman genere, il Rosmini afferma una fondamentale e necessaria pluralità di società. Per Rosmini vi è un'organizzazione necessaria dell'uman genere, vi hanno delle società di cui non si può far senza, perché condizioni di quell'organizzazione, anzi sue parti costitutive. Queste società sono quelle, appunto, generale e fondamentale del genere umano, quella domestica e quella civile o Stato. Ed ecco finalmente le pagine che costruiscono il matrimonio e la famiglia. Come noto, già nella filosofia della politica, il tema del matrimonio aveva avuto una solenne enunciazione. Studiando la costituzione delle società, Rosmini presenta due grandi leggi della proprietà e del matrimonio. Con evidente ispirazione a Vico, dice Rosmini, ella è la storia che ci mostra la legge dei matrimoni antica quanto l'umana società. Ella è la storia pure che ci attesta che ove qualche popolazione dallo stato selvaggio ed errante a cui fosse rovinata si volle rilevare a stato di umana comunanza, uno dei primi passi che si dovette farle fare si fu quello di sottomettere la congiunzione dei sessi a degli stabili regolamenti, istituendo così dei veri matrimoni inviolabili. Passando alla trattazione sistematica della filosofia del diritto, dobbiamo dire subito, riprendendo il motivo già toccato dei diversi influssi e delle diverse tracce che si rendono evidenti in Rosmini, che le pagine della filosofia del diritto non mancano di essere a tutta prima alquanto sconcertanti. Vi è tutto uno sviluppo giuridico, delineato con precisione, si direbbe con imperturbabilità. Sviluppo giuridico che richiama le trattazioni dell'ultimo giusnaturalismo e di Cristiano Wolff in specie. e vi è insieme ricca e si potrebbe dire traboccante, felice, sovente fulgida anche dal punto di vista letterario, l'espressione della realtà metafisica, psicologica e in generale etica che sostengono il matrimonio e la famiglia. Si potrebbe dire che matrimonio e famiglia in Rosmini segnano tipicamente quel duplice elemento di cui si diceva, quello giuridicizzante proprio dell'illuminismo settecentesco e quello sostanziale tutto improntato all'umanità, che li riceveva dalla tradizione classica, rivissuta e anche dalla suggestione romantica, nel senso toccato. Diciamo subito che questo duplice aspetto, se si sanno penetrare le pagine dense e talvolta sovrabbondanti di distinzioni giuridiche, si fonde in una vivente unità, che subito parla a noi. Figure ricorrenti e quasi insistenti nella contemporanea cultura, quali l'alternativa fra società e comunità, figure che ci ricordano i nomi di Tönnies, Scheller, von Hildebrand e di altri ancora, si trovano anticipate nei loro termini e risolte da Rosmini. E gli sembra ammonire chiaramente che se nel costruire il tema del matrimonio e della famiglia occorre aver riguardo alla psicologia, al sentimento, all'impegno e all'impeto delle persone, cioè come si dice oggi all'aspetto e alla realtà comunitaria, non si può perciò trascurare la società, e cioè la trama dei fini giuridici che sono di carattere ontologico e che sostengono la realtà spirituale e sostanziale. Cosicché noi ci avvediamo che questo grande spirito ha antiveduto un problema e un'alternativa del nostro tempo. Nel matrimonio e nella famiglia, forma giuridica, istituzione o sentimento spontaneo e prorompente? Si risponde con Rosmini. Sentimento nel diritto, sentimento che si riconosce nel diritto, nella giustizia e nell'istituzione, onde una serie vivente di fini propri di tutte le società e di queste in particolare. Ma andiamo oltre. Richiamiamo innanzitutto la parte giuridica. A questo punto devo fare un'osservazione di carattere generale che vale per tutto il mio dire. Per diritto Rosmini intende diritto naturale e razionale, o come gli dice, diritto razional cristiano. E gli parla anche di diritto filosofico. Quando si riferisce al diritto positivo, lo annuncia sempre con esemplare chiarezza. E quanto al diritto naturale e razionale, senza qui voler fare delle esposizioni generali, ma togliendo dalla trattazione che ci occupa una di quelle affermazioni di principi quasi incidentali, di cui è disseminata l'opera di Rosmini, che erano così care al nostro Capograssi, ricordiamo quelle sue parole. Noi, sotto le rovine che le tristi passioni fanno della retta natura umana, intendiamo scavare e rinvenire, se sia possibile, i preziosi avanzi e quasi i rottami di essa. La parte giuridica reca al suo centro il contratto, cioè l'incontro delle volontà. Il contratto è essenzialmente libero, ma importa necessità nelle conseguenze, nel senso che rende perpetua e indissolubile l'unione. Inoltre ha un potere di attrazione tutto particolare, perché solo attraverso il contratto di matrimonio si può realizzare la piena unione di due persone di sesso diverso. Un'unione con le parti inferiori solamente, senza l'unione delle facoltà più nobili, ripugna le esigenze della natura umana e a quelle delle singole persone. Rosmini fa un'importante affermazione nella quale è posta sottilmente in rilievo la forza giuridica che proviene dal contratto di matrimonio. Occorre distinguere la società coniugale di diritto e la società coniugale di fatto. Il contratto con cui viene posto in essere la società coniugale è un contratto promissorio, nel senso che le due parti si trasmettono un complesso di diritti che si possono ridurre ad uno solo, e cioè il diritto ad avere dal consorte la prestazione di quella piena unione che è l'oggetto del contratto. Ora, questo contratto promissorio conserva la sua validità anche se le parti manchino al dovere di adempiere a quanto si sono promesse. Fitta è la trama di diritti e di doveri di cui Rosmini avvolge la società coniugale. Egli distingue i diritti e doveri comuni, fra i quali diritti e doveri riguardanti l'unione e diritti e doveri riguardanti l'esercizio dell'unione, diritti e doveri distinti. Il principio da cui Rosmini fa derivare i diritti e i doveri comuni è la pienezza dell'unione coniugale e si può formulare così, sono sue parole. Debbono i coniugi conservare e realizzare quella pienezza d'unione che costituisce il loro matrimonio. Il primo rapporto di diritto e dovere è l'indissolubilità del matrimonio. Essa è fondata sulla legge naturale, sulla legge positivo-divina, che non è che la formulazione della legge naturale, e infine sulla legge sacramentale per i cristiani. Costumi opposti all'indissolubilità sono il concubinato e il divorzio. Il secondo rapporto di diritto-dovere, che deriva dalla pienezza dell'unione, è quello dell'unicità del coniuge. La stessa espressione pienezza dell'unione ne dimostra la semplicità e l'unicità, però che ciò che è pieno non può essere che d'un modo. Così Rossini. Rossini giustifica questo secondo rapporto di diritto e di dovere anche dall'analisi di alcuni sentimenti, come il sentimento del possesso esclusivo del coniuge e il dovere di fedeltà reciproca riconosciuti in tutti i paesi e in tutti i tempi. Terzo rapporto di diritto e di dovere che nasce dalla pienezza dell'unione è quello della comunione di vita, che non deve essere che un perpetuo scambio di beneficenza, di sollecitudine l'un verso l'altro dei due coniugi, volte a alleggerire all'altro le pene della vita e a crescergli onestia e soddisfazione. Ultimo rapporto, il diritto e dovere, che nasce dalla pienezza dell'unione, è la comunione dei beni, tra coloro che sono per la comunione assoluta e quelli che vedono sorgere dal contratto solo diritti sulle persone e non sui beni, Rossini propone una soluzione che concilia entrambe le esigenze. Abbiamo posto in rilievo la parte giuridica che, come si è veduto, è precisa ed elaborata e ha come esito di stabilire l'istituzione matrimoniale nella sua oggettività e nella sua perpetuità. Tuttavia, occorre dire subito, questa istituzione ha per Rossini radici alte e profonde ed è attraversata tutta da una vena potente di sentimento, onde ne sorge una vera comunità di vita. Una comunità di vita che, come direbbe von Hildebrand, è costruita organicamente sulla comunità di amore. Diciamo, il matrimonio ha una genesi nel pensiero e nell'interiorità degli sposi. Innanzitutto nel pensiero. Dio stesso, secondo Rossini, è la fonte prima dell'unione matrimoniale. L'uomo tende a unificare gli esseri e due sono le nature che l'uomo tende senza posa a congiungere a sé, la natura divina e l'umana. Qui ottiene particolare rilievo quell'elemento divino di cui si disse, la cui presenza operante caratterizza la filosofia rosminiana. Come si è veduto, vi è una società naturale che emana dalla natura dell'umanità e che ha per bene comune l'essere universale, presente come lume in tutti gli uomini e in cui questi hanno la stessa regola di pensiero e di vita. Ebbene, dato che nella società coniugale i coniugi mettono insieme le persone, la società coniugale è strettamente inserita nella società prima, fondamentale, che l'uomo ha con l'essere supremo. Ma dicevamo che il matrimonio ha una genesi anche nell'interiorità degli sposi. E in effetti, stabilito il presupposto ontologico fondamentale, Rossini si abbandona sicuro, quasi si potrebbe dire, alla descrizione della vita emotiva e psicologica e lo fa in lunghe pagine di finissime analisi, ricche di fantasia e fulgide di forma letteraria. Accanto ai vincoli, ai diritti e ai doveri, egli vuol porre in rilievo tutto il ricchissimo contenuto di umanità e di spiritualità che precede e avvolge l'unione. Appunto l'elemento del sentimento ha qui una ricchissima interpretazione. È un crescendo di forza e di intensità con una tensione che non viene mai meno. Si stabilisce prima tra l'uomo e la donna l'amicizia, quell'amicizia che può legare tutti gli uomini anche dello stesso sesso. Si afferma questa amicizia nell'amore che gli uomini hanno in comune della stessa verità, dato che l'essere amato è bene a chi l'ama, come dice Rossini. Dalla cognizione comune della verità e dell'amore di essa provengono alle anime amorose le stesse regole del pensare e le stesse regole di vita. È un affettuoso calore che questa prima unificazione spande nell'animo. Sono questi affetti spontanei che l'uomo può rendere sempre più intensi. Rossini distingue fra affezioni spontanee e affezioni suscitate. Perché sia possibile alle anime amorose consentire pienamente nei pensieri e negli affetti fra di loro, cioè non contraddirsi nelle opinioni e nelle affezioni, pur distinguendosi per varietà di cognizioni e di affetti, occorre la virtù, cioè la rettitudine delle volontà direttrici degli intendimenti. Questa produce una pace, un godimento, un intimo miglioramento dell'uomo. Essa fa sì che le anime amorose posseggano un identico bene, l'ordine dell'essere. Nelle anime amorose questo possesso fa sorgere sentimenti di rettitudine, di pace, di gioia, che pur essendo distinti, tuttavia sono dalle anime amorose goduti in comune in quanto sono propri di ciascuno. È invero, dato che la natura intellettiva ha come carattere distintivo quello di amare o niente, due esseri intelligenti si amano e amandosi, miracolo quasi dell'amore, amano anche i beni, i piaceri, la pace, la gioia, la dignità dell'altra anima amorosa. Ciò non è sino un'adesione sempre più cosciente all'ordine dell'essere, ciò è principio della stima morale, che sanno insieme gli amatori, e però i coniugi soprattutto, che sono gli amatori perfetti, per usare le parole stesse di Rossini. Qui occorre la distinzione fra natura dell'uomo e della donna, qui la distinzione fra doti naturali dell'uomo e della donna. Nel primo, coraggio, forza, attività, mente ferma, o certo più sviluppata a cagione del suo stesso genere di vita, istinto all'azione, alla trattazione degli affari, al governo, alla superiorità. La donna, timida dolcezza, graziosa debolezza, attenta docilità, essa è delicata, tranquilla, paziente e minuta. In essa vi è amore disinteressato e un profondo spirito di sacrificio. Su queste verità, intuite da prima, poi sperimentate scambievolmente dalle anime amorose, avviene il passaggio dagli affetti che possono legare tutti gli uomini di origine razionale agli affetti propri esclusivi di persone di sesso diverso. Rosmini distingue le gradazioni o colorazioni diverse di questi affetti, dalle affezioni sensibili che hanno dello spirituale e insieme dell'animale, alle sensuali, quali il bacio, l'abbraccio, e alle affezioni sessuali, che sono quelle che uniscono i due sessi all'interno della generazione. Ecco in una scelta che speriamo non inespressiva, ecco la ricca vena di interiorità e di sentimento che Rosmini vede nel matrimonio, che si potrebbe chiamare il presupposto psicologico ed emotivo della piena unione. Ma è essenziale tenere presente che tutto ciò è sospinto verso il solenne consenso, il contratto, la forma giuridica insostituibile, la quale però, si noti bene, non è alcunché di esteriore o di imposto, ma la logica conseguenza dell'itinerario di pensiero e di emozioni delle due anime. Qui abbiamo il fondersi dell'elemento della giustizia, del fine giuridico, con lo spirito stesso della comunità matrimoniale. Io credo che si possa riassumere questa veduta del matrimonio in Rosmini con l'espressione attrazione dello spirituale. Ciò ottiene conferma da ulteriori riflessioni cui Rosmini ci invita circa l'attuazione della piena unione, la tensione delle persone di coniugi, la natura dell'unione sessuale e la sua riconversione da ciò che in essa vi è di meno nobile. Abbiamo veduto sorgere la società coniugale nella pienezza che è propria. Vediamo ora come essa si attua. Alla piena unione hanno teso gli affetti sempre progredienti delle due anime amorose. A consolidare e a perpetuare questa unione è stato volto il contratto. Già si dice il contratto avere per oggetto la piena unione. Piena unione vuol dire unione perfetta, secondo natura, fra due individui umani di sesso diverso. I coniugi mettono in comunione tutto fra di essi, perché la loro unione è piena. Ma vi è qui una tensione delle persone e si conservano l'individualità personale che viene dall'uomo dalla sua comunicazione con l'Eterno e col Divino. Sta ferma cioè quella inconfusibilità delle persone di cui Rosmini così dice: di due nature i coniugi giungono a formarne una sola, ma di due persone non possono. Secondo Rosmini, l'unione personale è la più intima e anche la più nobile, perché in essa i coniugi si uniscono con le loro attività più elevate. L'unione sessuale è meno nobile e non principale, ed è una spontanea sequela che tiene dietro all'unione di persone vestite di carne. Oggetto prossimo del contratto è la piena unione riguardo agli affetti spontanei, e riguardo alla congiunzione sessuale, soltanto il diritto ad essa. L'unione personale è infatti il vero e primitivo fine del matrimonio, il fine interno e immediato, intrinseco, mentre la procreazione dei figlioli è il fine esterno, estrinseco. La nozione che alcuni danno del matrimonio in unione perpetua fra l'uomo e la donna al fine di generare figlioli è imperfetta e non esprime se non l'effetto e tutt'al più un ufficio del matrimonio. Perciò, secondo Rosmini, è essenziale al matrimonio l'affezione sessuale in potenza, ma non è essenziale che la pienezza venga ridotta all'atto. Il diritto specifico che il contratto di matrimonio vi è imposto in essere è la facoltà giuridica che un coniuge riceve di usare il corpo dell'altro. Ma questo diritto all'unione sessuale è una parte dell'oggetto del contratto di matrimonio, benché essa sia l'elemento specificante questo contratto fra tutti gli altri. da sottolineare subito però che Rosmini ammette esplicitamente che il non uso del matrimonio richiede virtù straordinarie. E gli dice: non si potrebbe concepire un'unione pienissima fra due coniugi casti se la virtù loro straordinaria e l'alto amore alle cose eterne in cui convengono non congiungesse in modo straordinario le loro anime. E questo straordinario consenso, questa maggiore unione di anime, non sopperisse vantaggiosamente a ciò che loro manca d'unione rispetto ai corpi. Siamo giunti così alle sommità dell'idea del matrimonio Rosmini e ci sembra che l'espressione attrazione nello spirituale renda pienamente questa realtà come pensata da Rosmini, e fondendosi tutta la materia spirituale nella forma giuridica e pervadendola, mentre questa sostiene, tiene fermo e conclude il processo spirituale. Ora vi è un altro passo da compiere per l'indicazione di un elemento che è intimamente e strettamente congiunto con quanto fino ad ora si disse, diciamo, il matrimonio cristiano. A questo punto l'espressione riassuntiva, attrazione dello spirituale, altro si potrebbe far seguire attrazione nel soprannaturale. Ciò avviene attraverso l'elevazione del contratto a sacramento. La dottrina sacramentale del matrimonio è da Rosmini impostata nella filosofia del diritto e svolta largamente nei vari scritti sul matrimonio che seguirono, che sono stati già da me presentati e che hanno carattere filosofico sì, ma prevalentemente canonistico e teologico. Secondo Rosmini, l'essenza del sacramento del matrimonio consiste in una divinizzazione della società coniugale formata da persone che appartengono alla Chiesa. Ragioni di spazio, ma non di spazio solamente, ci vietano di soffermarci sulle tesi e gli svolgimenti di questi scritti, che come si diceva hanno prevalentemente carattere teologico con precisi riferimenti storici. Desidero però porre in rilievo alcune pagine dello scritto del 1842 dopo Benedette le nozze, discorso tenuto alle nozze dal fratello Giuseppe con la baronessa Adelaide dei Cristiani di Rallo. Sono pagine che in tempi lontani, io quasi scopersi, e che sorpresero molto anche i capograssi. Qui Rosmini sembra quasi trasportare su di un piano soprannaturale il sistema dei doveri delineati nella filosofia del diritto e illuminarlo e vivificarlo, mostrando come questi doveri, già pieni dal punto di vista naturale, siano assunti dal concetto che l'unione di coniugi è figura di quella mistica tra Cristo e la Chiesa. E gli dice: le obbligazioni più generali dei coniugati cristiani si possono ridurre a quattro. La prima riguarda il Dio, ed è che il matrimonio dei discepoli di Cristo vuole essere un'unione spirituale. La seconda riguarda gli sposi, ed è che debbono avere in fra di loro una perpetua dilezione. La terza riguarda il corpo della nuova famiglia, a cui danno l'essere, ed è che sia da essi governata prudentemente. La quarta finalmente riguarda i figlioli, che nascessero dal loro matrimonio, ed è che li provveggano di buona educazione. Il sacramento è quello che dà la forza e gli aiuti ai coniugati di adempiere tutte queste loro sì gravi obbligazioni. Si attende ora la dottrina della famiglia. La società parentale è trattata da Rosmini subito dopo la società coniugale, ma come lui stesso indica, alcuni temi giuridici sono già toccati dal diritto individuale. La trattazione non è estesa come quella del matrimonio. Vediamone alcune linee. Tanto stretto è il nesso che unisce il matrimonio e la famiglia che l'unione che corre tra i coniugi si riversa sulla famiglia. Questa unione è vincolo di anime e comunione di vita. Siamo quasi ai confini tra matrimonio e famiglia. Così si esprime Rosmini con parole alte e profonde. L'unione che i coniugi hanno fra loro, in quanto può essere comune a tutti gli uomini, anche dello stesso sesso, è l'unione delle anime, è quella dei consorzi della vita. Ma oltre a questa relazione di umanità, vi sono diritti e doveri squisitamente specifici alla loro piena unione, e l'esercizio di questi pure si riversa sulla famiglia. Ecco sue parole. I diritti e doveri dei coniugi riguardanti l'unione sessuale sono il diritto di chiedere e obbligazione di rendere il debito coniugale, il diritto e dovere di eseguire l'unione che riguarda il sesso nel modo più conveniente alla natura e alla dignità umana. Diritto e dovere di rispettare il feto concepito, diritti e doveri dell'allevamento e dell'educazione della prole. Di grande influsso è anche la prevalenza dell'uomo sulla moglie che Rosmini ammette senza esitazione, a un doppio titolo, individuale e sociale. Trattasi però di superiorità di soggezione redative, da esercitarsi con quel temperamento che l'equità ed un senso di ragionevolezza ed un istinto privo di puntigli suggerisce. Qui evidentemente siamo già nella famiglia, ma non nella società parentale, che sorge con i figli e alla quale Rosmini dedica le sue trattazioni. I figli non sono che una totale accessione di stendimento e la loro nascita dà luogo a un'altra società, quella dei coniugi con i figlioli, che prende il nome di parentale. Rosmini insiste sull'unità che formano le due società, tuttavia distinte. Sono sue parole. La domestica società si intreccia di due società minori, che sono la coniugale e la parentale. Con quella incomincia, in questa si compie. La coniugale produce di sé e fiorisce la parentale. Né tuttavia è la perdita di sua prima unità, perché i figliuoli che l'estendono e la perfezionano, queste novelle sue membra, queste membra di nuova natura, con nuovi vincoli a lei aderenti, rimangono nel suo seno. È ancora la medesima società che per una totale accessione ingrandì. Rosmini ha un preciso principio giuridico da cui deriva tutti i diritti e i doveri propri della società parentale o della famiglia, principio che pone in evidenza con cura e che ribadisce anche alla fine della trattazione. Il principio è la speciale persona collettiva che si forma fra padre, madre e figlioli, già persona giuridica secondo natura. L'unione dei coniugi dà luogo a una persona collettiva, i cui caratteri sono la perpetuità, l'eguaglianza, la soggezione officiosa, quale si direbbe di funzioni, della moglie al marito. A questa persona collettiva altra se ne aggiunge, formata dal padre, dal figliolo e da tutti i discendenti, quelli che ancora non sono, ma che saranno, dalla specificità della quale persona collettiva si possono dedurre spontanei e ordinati i doveri e i diritti dell'uomo, dell'uno e dell'altro parente e dei figli. Come si vede, Rosmini avvolge la realtà della famiglia di una forma giuridica, appare sollecito della costruzione giuridica, onde si dilunga in classificazioni di diritti e doveri con ampi sviluppi ispirati al diritto romano, come quando tratta i titoli di occupazione dei figli da parte dei genitori e la patria potestà come potere signorile. Questi sviluppi, occorre dirlo, appesantiscono la trattazione. Ma occorre tener conto dei contrassegni della vita sociale del tempo e anche degli aspetti storici della famiglia di quel tempo. Tuttavia, ecco che qui ritorno il mio concetto interpretativo, ai modelli giuridici si aggiunge una profonda e universale veduta che, se è pervasa dal senso del diritto, determina però tutti i limiti e dà luogo alla solidarietà del sangue e degli affetti e soprattutto all'ispirazione religiosa, ricongiungendosi a quell'elemento divino di cui già parlavo. Mi fermerò solo su alcuni punti che comprovano che Rosmini concepisce la famiglia, al di là delle necessarie determinazioni giuridiche, come una comunità di vita, e soprattutto, lo sentiremo dire da lui stesso, come una comunità religiosa. L'unione dei genitori con i figli è perpetua, ma non sempre uguale come fra i coniugi, e sa varia secondo l'età della vita. Rosmini ha vivo il senso della storicità della società dei genitori coi figli. Tuttavia vi sono dei legami dei figli verso i genitori che mai cessano, che sono dettati dai vincoli del sangue e che nella valutazione di Rosmini si spingono in profondità. E gli dice: le relazioni giuridiche di sangue, essendo fondate in un fatto che non si può disfare, non vengono meno da mai. Già nel diritto individuale aveva affermato con particolare energia che nella famiglia si incontrano e anche si fronteggiano persone, e che un diritto filosofico non può, senza mancare alla sua perfezione, sono sue parole, restringersi a considerare la relazione di padre e di figlio soltanto nella veduta esclusiva che dell'uno fa mezzo dell'altro. Vi è un bene comune, ordinato della famiglia, e questo è tutto volto, in certo senso, ai figli. Dice Rosmini: ai genitori, considerata la perfezione della natura umana, basta vivere. Del resto, il loro maggior bene è quello del figliuolo stesso e della sua stirpe. Salva dunque l'esistenza non penosa dei genitori, la stirpe dei figlioli ha il maggior valore nel computo del bene ordinato della famiglia. Già nel diritto individuale aveva detto: si deve riconoscere al figlio le condizioni di mezzo alle gioie e a tutti i beni che i genitori ne possano cavare, e si deve riconoscere ancora in lui la condizione di fine alle cure che i medesimi gli devono prestare. E dice anche: l'indole particolare della soddisfazione paterna è quello che attenua, per così dire, l'egoismo signorile. Se si considera la paternità nella sua origine psicologica, certo essa si presenta con quel carattere di egoismo che è inseparabile dalla signoria. ma se si considera nell'oggetto a cui tende e con cui quel cotale egoismo cerca di soddisfarsi, l'indole egoistica viene meno. L'egoismo si trasforma in una tendenza di amore, in una propensione diffusiva, in una beneficenza di istinto, insita nella realtà stessa delle cose. L'interesse e l'amore proprio dei genitori li conduce al massimo disinteresse e alla generosità, secondo natura. I genitori sentono di possedere nel bene della prole un tale e tanto bene proprio che l'antepongono a tutti gli altri loro beni e financo a quello della vita. Qui si possono pronunciare le parole stesse di Rosmini. L'affetto dei generanti è un naturale sentimento, un misto indefinibile di infiniti speciali sentimenti, di infinite idee. Pure il sentimento prevalente caratteristico è quello di vedere e di accarezzare nel figliolo un'estensione e una riproduzione di se medesimi. Ma una riproduzione migliore, giovane, veniente, ricca di speranze, promettente loro una cotale perpetuità in sulla terra. Se giunti alla fine dell'esposizione ci chiediamo quali siano i caratteri del matrimonio e della famiglia in Rosmini, noi li abbiamo davanti. Nel matrimonio l'incrollabile indissolubilità, fondata immediatamente su di un consenso che fa sorgere una comunità perpetua, che dura quanto la vita e che avvince totalmente due persone, pur distintissime nelle loro peculiarità. Al centro il rispetto delle leggi di trasmissione e di conservazione della vita, la rivendicazione della spiritualità del vincolo, che attraverso un particolare rilievo dato all'elemento interiore su quello sessuale, volge il matrimonio direttamente a un elemento divino, quasi trasferendolo in Dio. Nella famiglia l'elemento autoritario e giuridico sì, dati dall'elemento signorile paterno, dalla priorità del marito e dalla stretta delimitazione dei diritti dei figli verso i genitori, ma una profonda e ricchissima comunità di vita, tutta permeata dai vincoli morali e religiosi, sì che anche nella famiglia l'accento più alto, si direbbe, è posto nell'elemento religioso, nella ricerca di Dio, che lo stesso moltiplicarsi della specie, che tende all'unità, simboleggia. A questo punto, alla conclusione, viene ormai stringente la domanda, che io ho lasciato aperto, deliberatamente aperto. Qual è il significato, qual è il valore del matrimonio e della famiglia nella filosofia di Rosmini? Dico non solo nella filosofia della politica, nella filosofia del diritto e negli scritti sul matrimonio, ma entro le linee stesse della filosofia rosminiana. Matrimonio e famiglia hanno qualche cosa da dire? Io credo di dover rispondere affermativamente e dico anche che a questo interrogativo io sono venuto preparando la risposta. Del resto occorreva per impostare questa prospettiva aver davanti tutta la dottrina rosminiana sul punto, nelle sue articolazioni e nei suoi modelli giuridici, naturali e razionali. Matrimonio e famiglia in Rosmini si presentano come nodi di pensiero che rispecchiano alcuni fondamentali motivi della filosofia rosminiana, nella sua genesi e nel suo approdo. Dico, e non per amore del tema, matrimonio e famiglia sono cariche di riflessi speculativi. Cercherò di dimostrare questa tesi con brevi considerazioni. Si è già ricordato con Santino Caramella come la meditazione giovanile sui temi giuridici e politici, ripresa con più fervore negli anni patavini, abbia accompagnato via via Rosmini nelle concezioni teoretiche generali, in una specie di solidarietà. Luigi Bulferetti ritiene al centro dell'interesse di Rosmini giovane le vicende delle tradizioni e lo svolgimento delle società, e addirittura si spinge a ritenere probabile, che l'intuizione dell'idea dell'essere sia balenata al Rosmini in connessione col progresso gnoseologico degli individui e delle società. In ogni caso si può dire che la meditazione giuridico-politica sia stata una sollecitazione potente a Rosmini per l'approfondimento e l'inveramento di quella ricerca della concretezza sensibile dell'esperienza, per quel disegno di scoprire la spiritualità del senso sia nelle cose che negli organismi sociali, che dovevano permettere l'integrazione del sentimento fondamentale nel principio dell'essere e andare di là dal sentimento fenomenico ed anche dell'io romantico. E già al principio abbiamo ricordato l'enciclopedia giuridica che si profilava in accordo al suo pensiero generale, la concretezza dell'etica, l'elevazione del sentimento, la fondazione della persona, il valore delle società, Dio, termine supremo e norma. Ebbene, a me sembra che nelle costruzioni che noi abbiamo seguito si noti in modo particolarmente vivo lo sforzo di Rosmini di pervenire a una sintesi di sentimento e di essere. Non ha egli ricercato gli aspetti e i moti più vari del sentimento dei coniugi, da quelli attinenti alla natura sensibile e sessuale fino alla sommità dell'unione coniugale che è volta all'essere? Non ha egli detto che la società coniugale è contrassegnata da una comunione di beni finiti e infiniti? O non ha egli stesso chiamato la società domestica incontro di terreno di divino? Ma vi è un altro luogo in cui matrimonio e famiglia sembrano rispecchiare particolarmente la filosofia rosminiana, in un punto suo essenziale, e cioè il rispetto dell'ordine pratico dell'essere, riguardo all'ordine dei fini che l'analisi rivela. Tutta la vita del matrimonio e quella della famiglia appaiono sostenute e quasi vivificate, rese unitarie, dal riconoscimento pratico dell'ordine dei vari fini, l'uno subordinato all'altro, fino al valore della vita e della persona, fino a quello supremo di Dio. Ma qui tocchiamo il punto più alto. Nel matrimonio e nella famiglia si fa presente e domina l'elemento divino, di fronte al quale l'uomo perviene per intuizione ed ascesa. Adunque a noi pare che come la costruzione del diritto individuale, inteso come proprietà e libertà, è tutta imperniata sulla destinazione di oggettività che questi due sentimenti ricevono, così la dottrina del matrimonio e della famiglia siano particolarmente espressive e delle movenze del sentimento, nel senso più ampio, e del compimento oggettivo delle comunità secondo l'ordine dell'essere e ancor più dell'itinerario diretto verso l'essere supremo da un punto di vista sia naturale che soprannaturale. Non ha parlato Rosmini di divinizzazione del matrimonio? In quest'ultimo punto, sull'elemento del divino, occorre insistere, perché qui le pagine sulla società domestica offrono particolare luce su di un carattere della filosofia rosminiana. In effetti, mi sembra che la teoria del matrimonio mostri in modo particolarmente espressivo il concetto ascensionale, diretto a Dio, anche muovendo dalle società. Appare chiaramente che, secondo Rosmini, il matrimonio vela e adombra il divino, nel senso di una particolare attrazione da parte dell'essere di questa realtà sociale, anche se connessa alle vicende storiche dell'umanità. Matrimonio e famiglia appaiono come un luogo di particolare incontro fra filosofia e elemento del divino, e ciò dal punto di vista sia naturale che soprannaturale. Ci sono luoghi che ciò testimoniano chiaramente. Ma vi è di più. La società coniugale ha un compito particolare nell'economia della creazione. È ciò che dice fin dall'inizio della trattazione. Se Dio si comunicasse pienamente all'uomo, la società coniugale non sarebbe più possibile, perché l'uomo troverebbe in Dio ogni bene, non pure sperato e finale, ma immediato e presente. Il fatto che Dio non si comunichi sulla terra pienamente all'uomo, che non lo spiritualizzi abbastanza, fa sorgere la società coniugale. Tutto adunque riceve un senso compiuto dal voler Rosmini, in ultimo, divinizzare il matrimonio. Quella che abbiamo chiamato attrazione nello spirituale e poi attrazione nel soprannaturale riceve così conferma. E allora in questo disegno, in fondo religioso, ha spiegazione quella particolare tensione che attraversa tutto il matrimonio e la famiglia di Rosmini. Dico tensione di perfezione, di affetti, di ascesi, di santità. Tutto è pensato come un itinerario verso Dio e verso Gesù Cristo. Si può fare un'obiezione filosofica a questo intento di trasfigurare nel divino il matrimonio e la famiglia, quasi che i contorni della pura natura, della natura in senso filosofico, venissero come lasciati indietro, e lasciati indietro i limiti, le resistenze, le pause della natura umana in questi legami che avvincono tutto il suo essere e in cui si riversa tutto il suo essere? Forse si potrebbe chiedere, vi è un'attrazione delle due società in specie del matrimonio da parte dell'essere, in modo che esse siano quasi consumate? O quantomeno l'essere si riveli soverchiante, onde la natura oggettiva delle due società, specie del matrimonio, ne risulti attenuata? Forse si potrebbe chiedere, l'elemento della soggettività, pure ricostruito ontologicamente, viene portato immediatamente di fronte all'essere e all'essere divino, onde si avrebbe un vero e proprio disegno di divinizzazione? Io risponderei di no a questa domanda, perché la realtà della natura è ben presente in tutti i suoi contorni, del matrimonio e nella famiglia dei Rosmini, ed è quello che ci svela l'analisi giuridica, soprattutto se non si dimentica la chiave fondamentale, che è quella di avere riguardo all'ordine di realizzazione dell'essere. Nulla viene lasciato indietro circa gli aspetti naturali e giuridici delle due comunità, che anzi abbiamo assistito a lunghi sviluppi. Al più, come abbiamo accennato, si potrà parlare di una tensione fra il giuridico e lo spirituale. La verità è che nel significato ultimo divino del matrimonio e dell'intera società sta presente in modo particolare un carattere della filosofia rosminiana, quello di ascesa diretta all'essere, con una conseguente, forte e appassionata accentuazione di tutto l'elemento spirituale. Così tutto il discorso va a cadere sulla metafisica rosminiana e sulle scelte che essa comporta. Per quanto riguarda la valutazione dal punto di vista della filosofia del diritto, della complessa, specifica tematica che ci ha occupato, mi sembra che ci troviamo di fronte a un'imponente costruzione, in cui certo l'elemento del divino e anche l'afflato spirituale sono particolarmente accentuati. Ma tutto ciò avviene ad una pacata lettura interna con piena armonia. E mi pare che tutto questo sia incrinato da visioni pessimistiche di alcune realtà più terrene, come l'atto sessuale. O non ha detto Rosmini che il matrimonio cristiano introduce più di quello dei primi uomini al possesso di Dio e che i redenti incorporati a Cristo possiedono di Dio assai più che di uomini innocenti? In sostanza, io credo che, ammirato il quadro della filosofia del diritto, come dicevo, le rappresentazioni del matrimonio della famiglia Rosmini, meditate a fondo, ci sospingono al centro della teoresi, voglio dire della metafisica rosminiana. Qui può sorgere un problema più generale, aver sollevato il quale è prova dell'importanza delle realtà che abbiamo studiato per l'intera filosofia di Rosmini. Altissima è la concezione del matrimonio e della famiglia in Rosmini, sino a toccare i limiti della trasfigurazione. Nell'attuale sconvolgente crisi dell'istituto matrimoniale e familiare, ci sembra che la difesa pronunciata da un grande dei contenuti razionali, emozionali e spirituali di queste due società sia da accogliere come un attuale e urgente messaggio. Antonio Rosmini, che ha sofferto intensamente nella sua alta spiritualità tutti i mali e gli abissi dell'umanità, sa additare la luce e il conforto che l'umanità stessa può avere in vie non dimentiche di sé, ma invece a sé vicine, ritrovando i supremi valori nel suo più umile e naturale solco. Bene, ringraziamo di questa relazione anche così ricca e direi approfittiamo subito di 20 minuti al massimo che abbiamo a disposizione però per aprire il discorso su ambedue le relazioni di questa mattina. Che credo. Prego, parlo di questa. Ho l'impressione che le due relazioni di questa mattina siano diverse, questo anche metodologicamente richiesto, ho l'impressione anche che siano un po' divergenti nella linea ermeneutica. Poi deve sapere dagli stessi relatori se loro ritengono che ci sia questa violenza. Cioè, io non saprei come definire il rapporto tra le due relazioni, se quella di una concordia oppure di una discordia concorso, indubbiamente c'è sempre. Ecco. E direi che due punti gravitazionali, eventuale divergenza, si potrebbero trovare quelle due espressioni emblematiche, professor Ambrosetti, attrazione dello spirituale, professore Brenner, tradurrei anche tenendo presente il suo libro, lo splendore erotico dello spirituale. No, no, lui lo usa questo termine, vabbè, perciò dico, mi pare che ci siano anche due linee divergenti di interpretazione. Comunque, quei relatori sono infatti al testo rosminiani la filosofia del diritto. Ecco, io mi chiedo anzi ai relatori, se loro non ritengano che la radice anche di questa possibile divergenza si trovi nello stesso testo rosminiano, cioè dire quello di tentare una filosofia del diritto. Questo è il rischio delle filosofie, come anche delle teologie, del cosiddetto genitivo. perché quel genitivo può essere preso sia in senso oggettivo, quindi la filosofia che fa oggetto della sua specifica indagine, quel dato che è il diritto. E allora in questo caso la filosofia oggettivizza il diritto. Oppure come genitivo soggettivo, cioè il diritto che nella sua autonomia, nel suo configurarsi, fa sorgere una filosofia. Ecco, non è una domanda che io pongo. Lei deve rispondere primo, no? È stato il primo relatore. Ma sostanzialmente io concordo con il rilievo del professor Cristaldi e credo che ci siano due ermeneutiche diverse. E non riconoscerei il testo rosminiano a proposito della società coniugale nella definizione di attrazione nello spirituale, anche perché attrazione nello spirituale non è specifico dell'unione coniugale, attrazione nello spirituale costella un po' tutto il tentativo di unione che l'uomo mette in atto. Se dunque va trovato uno specifico all'unione coniugale, evidentemente non è lo spirituale a segnalarcelo, almeno nell'accezione ristretta del termine. Che l'unione coniugale abbia nel momento spirituale, in quanto presieduto dal principio senziente, l'anima, il suo termine ultimo, e che quindi sia l'anima il principio che sente, ma sente unitariamente, allora in questo senso direi attrazione nello spirituale. Però l'anima sente perché ha un corpo, e se non avesse il corpo non avrebbe una storia, avrebbe soltanto l'intuizione dell'essere. Ma questo non sarebbe sufficiente a definire la sua umanità, cioè a definire la sua condizione di anima destinata ad una condizione mondana. L'intuizione dell'essere non è sufficiente a definire la natura umana. La condizione di corporeità è allora lo specifico dell'uomo e diventa lo specifico di una unione coniugale che tende a saldare nei corpi le anime. Ecco, questa è la lettura che io in qualche maniera ho cercato di dare, credo non forzando i testi rosminiani, forse preoccupato maggiormente di evidenziare la novità all'interno della tradizione ufficiale cattolica, che certo non ha privilegiato il corpo, e quindi forse con questa preoccupazione ho finito per sottolineare la parte che appunto io ho detto sentimentale. Qui vorrei anche precisare che nella mia relazione il richiamo alla definizione di Rosmini, il sentimento è piacere, tendenza a godere, evidentemente voleva dire, non ho avuto possibilità di esplicitare questo discorso, che è il sentimento della felicità, e dunque tendenza a godere non c'è dubbio che abbia una prima connotazione morale di appagamento, e questo nella terminologia rosminiana il più esatto contesto. Dove quindi il godimento è il sentirsi felici e anche sentirsi definitivamente capaci di questa felicità nella reale condizione, cioè la condizione che permette questo sentimento, dove allora il corpo è oggetto di piacevole sensazione e quindi di felicità, perché unitariamente avvertito in un sentimento, ma in quanto così avvertito, in quanto così percepito, è evidente che non è staccato da una costante sensazione di se stessi, che è unitaria, e dove quindi dicendo sentimento si intende privilegiare il modo corporeo di sentire, dove il corpo è termine, ma dove nello stesso tempo diventa anche il punto di riferimento rispetto al principio. Non c'è termine senza un principio, così come non c'è principio senza termine. Se il rapporto anima-corpo è di principio e termine, non è soltanto in senso lineare, è anche in senso di reciprocità. E allora l'anima è principio di un corpo che è termine, ma il corpo a sua volta, inducendo verso l'anima tutto il mondo della realtà e del senso, induce e modifica l'anima. Allora è principio e termine in una reciprocità che costituisce l'unità, l'unità di questo sentimento che l'uomo è. Dunque, se Rosmini dà questa definizione, che l'uomo è sentimento, mi pare estremamente interessante cogliere le conseguenze di questa affermazione. È un sentimento unitario di se stesso come principio e termine in una circolarità, dove dunque non c'è un punto di partenza, così come il cerchio non ha un punto di partenza. Anima e corpo sono iscritte in una circolarità, in cui viaggiano in una reciprocità di rimandi. Ecco, io spiego con questa lettura la mia relazione. Io, schematicamente, io credo di non poter riconoscere questo privilegio alla categoria corporeità in Rosmini, nella mia modesta conoscenza di Rosmini, a questo punto questo privilegiare la corporeità. E la trazione dello spirituale, io credo che la credo valida in questo senso, che pur come lei dice, però, essendovi naturalmente la costruzione e il riconoscimento anche psicologico della realtà corporea, delicata sempre, mai forse soggetta a quelle lacerazioni di cui lei forse parlava, quel dissidio di cui lei forse parlava. Tuttavia c'è sempre una linea ascensionale, tanto è vero che c'è la famosa affermazione della, in certo modo, minore nobiltà dell'atto sessuale, la quale viene ripresa da Rosmini e dice portata verso le anime perfette, le quali possono anche fare a meno di questa che cosa? Corporeità in sostanza, perché l'atto sessuale è proprio emblematico della corporeità, per cui c'è questo itinerario veramente di ascesa spirituale, la quale però è dato alle libere forze della natura. Se i coniugi vogliono inoltrarsi in una via di ascesa spirituale, possono anche in certo modo passare sopra la loro corporeità, per così dire. Non è una cerchia che non si possa infrangere o che in un certo modo incombe. Ecco, in questo senso io credo che questa polarizzazione sulla corporeità forse non sia da accettare, perlomeno a me non convince, ecco, diciamo nello spirito di Rosmini, ecco, che mi pare uno spirito di grande equilibrio, di grande riconoscimento delle diverse forze. E che il sentimento fondamentale è un sentimento che nel fondo è teoretico, riguarda il rapporto con l'essere in sostanza, non vedo che si possa in un certo modo convogliarlo, vero? O perlomeno trattenerlo su questa dimensione, ecco. In ogni modo io riconosco alla sua relazione un pregio molto, cioè quello della, diciamo, della linea deduttiva entro Rosmini che lei ha saputo percorrere con forza veramente notevole, mi pare, anche se poi alcuni punti no, non sono d'accordo. Noto che sta emergendo più la discordia che la concordia. È meglio. Cosa vuole? È meglio. Io di Rosmini purtroppo non conosco granché, però sono venuto qui proprio con l'impressione che Rosmini abbia anticipato i tempi e che quindi abbia qualcosa da dire oggi. Torno qua sul discorso di ieri sera, credo che il nostro essere qui abbia proprio questo scopo, non un positivismo storico per cui andiamo a vedere che cosa ha detto, perché potremmo andare a vedere cosa ha detto Carneade e avremmo lo stesso frutto, più o meno. Invece no, con Rosmini abbiamo un frutto molto più grande, perché abbiamo l'impressione che abbia anticipato i tempi nostri. Però, siccome non era dei tempi nostri, tantomeno dei tempi di domani, probabilmente aveva anche lui dei condizionamenti molto grossi. In questo punto che è stato sottolineato, non sapendo niente, soltanto da quello che riesco a ragionare adesso dopo le due relazioni, mi pare che, insomma, io avrei piacere che avesse ragione il professor Prenna, ma ho il timore che abbia ragione il professor Ambrosetti. Cioè, ho l'impressione che un vero approfondimento della sessualità umana non l'abbia fatto neanche il film. Per fortuna. Si parla proprio di questo. Come noi, ufficialmente, almeno dobbiamo essere analfabeti, come noi sacerdoti. Ma quindi sarebbe casomai un laico, uno sposo, due sposi, come dovrebbero fare. Ma quello che mi dà un po' questa impressione, il timore che ha ragione il professor Rosetti, è che c'è un riferimento chiarissimo alla dottrina di Platone, nel Simposio, sulla situazione lacrimevole dell'uomo e della donna separati nella sessualità, ma che ricercano in qualche modo di tornare all'unità primordiale. Quindi la situazione della separazione dei sessi è vista come una tragedia, un dramma, un male. E allora c'è dietro il manicheismo, non c'è dietro semplicemente Platone. E da questo bisogna uscire, come dal corpo, come carcere, bisogna uscire, secondo Platone. Non c'è una teologia del corpo, non c'è Robinson, non c'è... Ecco. Adesso, se potete sopportare... Ecco, l'altra verifica che mi pare di trovare, questa volta con le parole del professor Rosetti, è che secondo Rosmini ha tentato di fare una sintesi fra sentimento e essere. È terribile. Se fosse mai vero, vuol dire che non ha mica capito granché. Come si fa a distinguere fra sentimento e essere? Se il sentimento è qualcosa, ed è qualcosa di nobile, qualcosa di importante, fuorché essere non può mica essere altro. Essere ideale. Se mi permette, se noi arriviamo a dire che l'ideale è il sentimento, è l'essere contrapposto al sentimento, vuol dire che torniamo nel manicheismo. Il vero essere è soltanto l'anima, lo spirito, e questo che è il corpo, che è il sentimento, che è il godere, che è il piacere, che è questo gioioso incontro, non ha nessun significato. Allora, se l'attrazione spirituale è lo scopo del matrimonio, intuisco che c'è qualcosa di molto vero, perché in cielo non si sposano, però se questo è vero, temo che si debba tirare la conclusione che allora questo matrimonio di specifico non ha niente, l'ho detto per il professor Rosetti. Allora l'unione tra due omosessuali potrebbe arrivare a questo. L'unione, come no, insomma, l'unione di un'amicizia che non ha niente di sessuale potrebbe arrivare a questo. Allora, ecco, pongo questa domanda qui io. Non è che voglio dire, Rosmini doveva dire delle altre cose, ci mancherebbe altro. Lo studio storico va a vedere che cosa è detto. Però se noi diciamo che è un messaggio attuale, allora prendiamo volentieri tutto quello che è veramente attuale, dicendo anche qui e qui e qui, mi sembra che abbia preso delle cantonate. Era inevitabile, perché se le ha prese Sant'Agostino dicendo che il matrimonio è morale perché c'è la procreazione. E Rosmini dice giustamente che è immorale porre la procreazione come scopo del matrimonio, cioè come... No, dice che non è il fine esclusivo, dice. Che vorrebbe dire che anche qui tornando... Ma non nega assolutamente l'oggettività... Se ha ragione Rosmini, non ha ragione il Papa nelle Umane Vitae, non abbiamo ragione noi a dire che i fini sono comprimari. Bisogna dire che il fine punitivo è primario rispetto a quell'altro. Un capovolgimento, non è a colpa Rosmini, dico, però se vogliamo prendere il messaggio di Rosmini come qualcosa di applicabile attualmente, bisogna che dare il coraggio di dire tutto. Qui siamo in filosofia, possiamo anche dire, in teologia potrei dire, oh, c'è un documento del Papa, come la metto? Qui siamo in filosofia, diritto, dopo poi ci sarà il problema della dottrina della doppia verità, ma se accertiamo che in filosofia e in diritto c'è una verità sicura, e dopo bisognerà che forse anche la teologia cerchi di adattarsi un pochino a questa verità sicura. Dio è uno solo e la verità è una sola. Bene, quasi direi che... No, aggiungo alla sua osservazione che il nostro è un istituto laico, e dove...